Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi le borse sono in netto recupero dappertutto e in particolar modo a Piazza Affari, più 3,40% in questo momento l'indice Mibtel, più 1,70% a Parigi, più 1,90% a Francoforte, più 2% a Londra. Devo dire l'America guadagna lo 0,90%, allora io dico... È vero che non basta una rondine a far primavera, non basta neanche un rialzo del genere a dire che i mercati si sono ricorretti, però Telecom Italia guadagna il 7,5%, ma al di là di Telecom, di cui parleremo, A2A guadagna il 6%, Generali più 5,80%, Enel Green Power più 5,70%, Tenaris più 5,40%, bene anche le banche. È certo che vengono da cali pesantissimi dall'inizio dell'anno, però Unicredito più 4,80%, UbiBanca più 4,5%, Intesa San Paolo più 4,40%, Banco Popolare più 4%, ST Microelectronics, che non c'entra nulla con le banche, chiaramente più 3,90%, Buzzi Unicem pure, il 3,70% lo guadagna Mediolanum, e ancora Mediaset più 3,70% come Mediobanca, Fiat Industrial più 3,60%, Autogrill più 3,5%, Banco Popolare più 3,30%, Exor più 3% e la Popolare di Milano più 3%, Fiat più 2,80%, Eni più 2,80% anch'esso. Perde solo di Assorin lo 0,70%. Direte che cosa è successo? Ma obiettivamente l'asta spagnola, adesso ne parleremo, è andata in chiaro scuro, cioè né bene né male. Un indice, quello tedesco, sulla produzione industriale ZEV, sulla fiducia, non è sto buono, però il mercato è nervoso, l'euro è in netto recupero, siamo a 1,2706. Obiettivamente motivi forti non ne vediamo, se non ricoperture, se non un mercato che vende un giorno per ricomprare il giorno dopo, ma tant'è, visto il periodo, un galletto ci sta e poi le notizie in breve. Gallo non fa rialzo, così come una rondine non fa primavera, ma ripeto, visto il periodo, qualunque cosa prendiamo. Il petrolio in calo 82,94 dollari, l'oro è invariato a 1628 dollari l'oncia. Dalla Grecia è arrivata la notizia che il leader di Nea Dimokratia, Antonis Samaras, e quello del PASOK, Evangelos Venizelos, sono d'accordo, la Grecia dovrebbe avere un governo entro stasera. Dicevamo dell'asta spagnola, cioè la Spagna ha dovuto trovare compratori per il suo debito oggi per 3 miliardi di titoli di Stato a 12-18 mesi, li ha collocati tutti, ma ha dovuto offrire rendimenti alti al 5,07%. Pensate, il botto a un anno spagnolo è passato dal 3% di rendimento che aveva a maggio al 5% di adesso, cioè 2 punti percentuali in più che deve pagare la Spagna per trovare compratori per il suo debito. E anche quello di 18 mesi è passato dal 3,3% di maggio come rendimento al 5,1% di oggi. E poi c'è una vicenda nella vicenda, ossia Cipro. Cipro, a causa della Grecia, da oltre un anno non riesce ad avere accesso ai mercati ed è vicino, secondo molte fonti europee, di Bruxelles, un pacchetto di aiuti che arriverà dall'Eurogruppo già giovedì prossimo nel vertice in Lussemburgo. La richiesta di aiuti potrebbe arrivare ufficialmente nel fine settimana a mercati chiusi, ma ripeto, se ne parlerà già giovedì. E ancora abbiamo appena dato un gallo, mo diamo un bel gufo e lo diamo oggi al presidente della Confederazione Tedesca del Commercio all'Ingrosso e del Commercio Estero, Anton Börner. dice: se non farà presto altre riforme, l'Italia sarà il prossimo paese da salvare. Il governo Monti ha fatto delle riformine, dice Landesblatt, ma questo non basta a spronare la crescita nel medio periodo. L'Italia ha un grave deficit di competitività. E allora, prima il gallo e poi prima il gufo e poi il commento. Allora, io non voglio dire forza Grecia, questa sera c'è la partita, ma figuratevi, vinca il migliore tra Grecia e Germania. Però, caro Anton Berner, l'Italia risente di un grave deficit di competitività. È vero, perché se andiamo a vedere tutte le tabelle di come era l'Italia, come esportava l'Italia prima dell'euro e dopo l'euro, notiamo che è l'opposto di quello che succede alla Germania. La Germania col marco aveva difficoltà a esportare, ha preso l'euro e ne ha avuto un vantaggio competitivo. Noi ci siamo beccati un euro forte e ne abbiamo avuto uno svantaggio competitivo. È chiaro che noi abbiamo una difficoltà e delle riforme da fare al nostro interno, però è chiaro che anche la Germania ha migliorato notevolmente la sua bilancia commerciale da quando c'è la crisi, che, voglio dire, si sta, avendo accumulato così tanta ricchezza, dovrebbe anche spendere un po' di più. Chiedere ai paesi poveri di spendere a proposito di quelli ricchi mi sembra una cosa fuori di testa. E poi ci spiegasse, visto che è anche responsabile del commercio con l'estero tedesco, come mai proprio recentemente la Germania vinto una commessa di 13 milioni e mezzo di euro per fornire armi alla Grecia, ma soprattutto la Grecia era il primo partner nell'export tedesco di armi. Il 15% di tutto l'export tedesco di armi andava alla Grecia. Allora, o sono greci e non gli si vendono le armi, oppure sono greci ed europei e gli si vendono le armi. Abbiate pazienza. Nel frattempo l'indice tedesco ZEV, che misura le aspettative sull'economia tedesca, è crollato ai minimi da 14 anni. Dispiace, perché noi sappiamo cosa vuol dire avere un'economia in difficoltà e ci auguriamo che non capiti lo stesso anche ai tedeschi, altrimenti insomma potrebbe risentirne il loro orgoglio e delle volte anche un po' spocchioso. E comunque le attese sono appunto di un... è crollato l'indice sulle aspettative dell'economia tedesca a meno 17 punti contro gli 11 punti di maggio. Lo spread italiano è leggermente sceso, ma resta assolutamente alto, a 440 punti. Mi riferisco allo spread italiano. Mi fate notare che ho detto stasera Germania-Grecia, chiaramente è un refuso, scusatemi. È venerdì la partita tra Germania e Grecia, ma ripeto, non faremo un focus su questo. Vinca veramente il migliore, eh? Se uno vuole dire tra Grecia e Germania, con chi sta il cuore, con i più deboli, con chi ha già tante sfortune, che forse meriterebbe anche di vincere qualcosa, no? Allora, veniamo ai casi di casa nostra. È crollato letteralmente il mercato immobiliare in Italia. Attenzione, non parliamo di prezzi del mattone, parliamo di compravendite, quindi di acquisti e offerte. Meno 20% nei primi tre mesi dell'anno. Non è mai successo che vi fosse un crollo delle compravendite così alte, e tra l'altro a Roma meno 20,6%, Milano un po' meglio, meno 10,7%, Palermo meno 26%, Genova meno 21%, Firenze meno 21%. Ripeto, prima di dover rispondere agli sms al 349-238-6666, non è il valore dell'immobile, è il numero di compravendite. Certo è che più calano le compravendite, più si allungano i tempi della compravendita, più il mercato resta ingessato. E il ministro Elsa Fornero sta parlando, sarà uno dei temi di Focus Economia quanto sta riferendo il ministro al Senato sulla vicenda degli esodati. Ha detto già che il numero di 400.000 lavoratori non è, della relazione dell'INPS, non è il numero dei lavoratori da salvaguardare. E vabbè, sul mio comportamento vi sono state insinuazioni non vere. I dati INPS, però, i consulenti del lavoro dicono che i dati INPS in realtà sono giusti. In una ricerca, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sottolinea che le stime contenute nella relazione dell'INPS, quella fornita al ministro, che il ministro si è arrabbiato perché è stata divulgata, ma l'era stata fornita, sono giusti, sono almeno 370.000. Non so se vogliamo continuare con questo balletto sulla pelle di chi non ha più il lavoro e non ha ancora la pensione. Il giudizio del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, la riforma del mercato del lavoro è una vera boiata, ma non possiamo che prendercela così. Dobbiamo presentarci il 28 giugno. E poi ha detto Squinzi, spero che ci sia l'occasione di tornare nel merito dei correttivi. Ha definito il quadro politico sconcertante, c'è una situazione di grande preoccupazione che si colloca in un quadro politico sconcertante e i problemi grossi sono in Italia, altre aree stanno riprendendo un percorso di crescita, ha continuato il neo presidente di Confindustria. Il problema siamo noi in Italia perché abbiamo voluto rientrare in maniera troppo rapida, sproporzionata alle nostre forze sul fronte dei conti pubblici, deprimendo i consumi. Quindi c'è un eccesso di rigore, ha continuato Squinzi. Non ho mai detto forza Grecia, per favore, vedo che alcuni scrivono, abbiamo bastonato e criticato la Grecia moltissimo, la Grecia ha truccato i conti nel 2008, 2009, 2010, qui stiamo ragionando di come si esce da questa cosa, non è inutile continuare a dire come in certi rapporti è colpa tua, è colpa mia, ormai insomma, la colpa è della Grecia, però vogliamo uscirne o no? E poi vedremo, perché Angela Merkel è al G20, è sotto assedio, Barack Obama ha fatto saltare metà degli incontri previsti con i vari capi di Stato, per carità, la Merkel spera di vincere in questo modo le elezioni, a nostro avviso non ce la farà nonostante tutto questo, ma i cocci li sta pagando il resto d'Europa. Per il frattempo però noi continuiamo a guardare in casa nostra, e cioè guardiamo in casa della Germania per quelle che sono le politiche europee, ma guardiamo in casa nostra per quello che riguarda le cose ancora non fatte, e qui si dice il rigore. Polillo, sottosegretario Polillo, lo abbiamo cercato, forse ce la faremo ad averlo con quella sua battuta, mi sembra una battuta, lavoriamo una settimana in più, il PIL cresce dell'1%, fosse così, quando le aziende ti chiedono di andare in ferie, di recuperare le ferie arretrate e quant'altro. Ebbene, rigore sì, ma non per tutti, quindi torna con forza la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Chiedo però anche l'aiuto della regia, perché per le notizie che devo leggere a questo punto... avrei bisogno di una base anche un po' più così sulla crisi che una parte del paese, piccole parti, alcune regioni che continuano a sprecare, ne abbiamo parlato a lungo, regione Sicilia su tutte, ma ci sono anche le altre, e anche alcuni palazzi del potere, per esempio il Senato. E allora, l'indennità di palazzo, fino a 2.500 euro in più per chi lavora presso Palazzo Madama senza essere dipendente. Costa complessivamente questo, che vale per i poliziotti, i carabinieri, i vigili del fuoco, i vigili urbani, gli impiegati di banca, delle agenzie di viaggi, delle poste che lavorano dentro il Senato, costa complessivamente 3.700.000 euro l'anno. E voglio dire, io l'indennità la darei ai poliziotti che sono... Non voglio fare demagogia, ma insomma, il poliziotto dentro il Senato che indennità deve avere? Perché ha a che fare con i senatori, forse, ecco, l'unica. Perché sennò sarebbe bello che la pigliasse il poliziotto, il vigile del fuoco, il carabiniere, il vigile urbano, che lavora nelle periferie, che rischia la vita, no? Perché dare a quello che sta al Senato? Qual è l'indennità di chi sta al Senato? Non ho capito, ma... Non capisco io, Nel frattempo però il resto del paese frena su tutto, frena anche i lavori di costruzione e manutenzione delle strade che hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 20 anni, lo dice l'associazione delle filiere dei lavori stradali. La produzione di asfalto è crollata da 45 milioni di tonnellate a 29 milioni e siamo scesi a 27 milioni di tonnellate a fronte delle 40 milioni di tonnellate ritenute necessarie a tenere in sicurezza le nostre strade. Vai! E poi potremmo continuare con i 3,5 miliardi per la metro fantasma di Roma, 1 milione per lo staff del presidente della provincia di Palermo, i falsi contributi per il terremoto in Abruzzo, l'imbroglio dei costi di formazione a Pompei, 10 milioni spesi dalla Farnesina per un ospedale in Albania mai finito, gli 800 milioni dati alla società Sogei per il controllo mai effettuato dei video poker. E chiudiamo con il CNEL, il più inutile degli enti inutili, non se la prenda il presidente Marzano, vorremmo sapere cosa fa. 64 consiglieri, erano 120, li ha dimenticati Monti, 1500 euro netti al mese, tutti i leader sindacali, Camusso, Bonanni, Angeletti, il presidente del Confturismo Bernabò Bocca, gli esponenti della Compagnia delle Opere. Insomma, vorremmo sapere che cosa fa il CNEL, che nella sua storia ha prodotto 15 disegni di legge, un po' pochino, eh. Vabbè, se ci sentono i tedeschi in questo pezzo, auguri con la posizione contro l'Italia e contro i paesi dell'area sud. Ormai questo programma sta su con le musichette. Beh, certo, non con i mercati, di che cosa dobbiamo parlare, ma invece adesso torniamo a essere seri, serissimi, così alcune vestali di Focus Economia sono contente e andiamo e ci trasferiamo dove si sta concludendo il vertice dei G20. Allora, l'abbiamo battezzata la ballata dell'euro. Alessandro Melli è in collegamento con noi. Buonasera Alessandro dallo Scabos, mi senti? Sì, buonasera. Non so se l'hai sentita bene, ma insomma è la ballata dell'euro in cui abbiamo messo un po' di sirtacchi, un po' di flamenco, un po' di tarantella e poi Beethoven nel finale. Cosa dobbiamo fare in questo periodo col caldo che fa? Allora, a parte il caldo, dici come mai è saltato questo vertice? Adesso sentiremo anche, anzi sentiamo le dichiarazioni di Mario Monti e poi anche il tuo retroscena. Mario Monti sugli incontri saltati, soprattutto quello che riguardava Barack Obama e Barack Obama in primo luogo. Obama ha fatto saltare molti degli incontri con i paesi europei previsti. Ho visto che c'è stata sorpresa perché non si è tenuta la riunione serale ipotizzata tra il presidente Obama e i paesi membri dell'Eurozona. La ragione è molto semplice: si è parlato tutto il giorno di Eurozona, naturalmente anche di altri problemi, ma moltissimo di Eurozona, e poi era stato sì immaginato che alla sera ci potesse vedere ulteriormente, ma mentre c'era lo spettacolo dei fuochi d'artificio io mi trovavo in quel momento a chiacchierare con Obama. Mi ha chiesto se secondo me era ancora necessario che ci vedessimo ulteriormente per discutere di Eurozona. Io gli ho detto secondo me no, comunque lasciami chiedere a Merkel e Hollande, che anche loro hanno pensato che la giornata fosse stata più che ricca di dibattito su quel tema. Allora, Alessandro Merli, adesso l'hai risentita la nostra ballata dell'euro? Pronto? Molto bella. Vabbè, non potevi dire altrimenti. Senti, ma questo vertice è saltato, al di là Monti dice abbiamo già parlato di euro, non è che mi convinca moltissimo. È vero che il nervosismo tedesco era palpabile, quindi Angela Merkel avrebbe preso questi insieme di vertici come un ulteriore accerchiamento? Ma Monti naturalmente ha dato una spiegazione diplomatica, io ovvio. Credo anche un'altra cosa, che abbiamo molto la tendenza, la tentazione di concentrarci sugli strappi, sugli scontri, sulle polemiche, ed è vero anche che ieri dietro queste pressioni americane che durano ormai da settimane, il Presidente della Commissione Europea Barroso è sbottato, ha detto non siamo qui venuti a prendere lezioni da nessuno. È vero anche forse che la Merkel magari è meno isolata di quanto poteva sembrare alla vigilia. Pochi minuti fa, aggiungo, è circolata una voce, un'indiscrezione secondo cui questo incontro sarebbe stato riprogrammato per stamattina, ma secondo me più che a queste cose dobbiamo guardare al merito. In realtà questo incontro di Obama con i quattro leader europei è tutto sommato abbastanza irrilevante, perché per quante idee si possano scambiare, ben noto sia quello che pensa Obama sia quello che pensano i quattro europei, e comunque le decisioni non possono essere prese in quel contesto lì, ma inevitabilmente andranno prese in Europa, cioè alla fine l'Europa che si dovrà assumere le responsabilità di fare quello che deve fare per salvare l'euro. Quindi insomma questo G20 è un po', come si dice, un sideshow, una comparsata in una località in cui del i protagonisti Messico. Sono europei e la decisione va presa in Europa. Obama insomma credo che possa dire la sua, ma in questo caso è condannato un po' all'influenza, suo malgrado, perché naturalmente si rende conto che se salta l'euro, se si aggravano i problemi dell'Europa, questo complica anche le sue chance di rielezione in novembre. Sì, diciamola tutta, Obama è preoccupato che se salta l'euro hai voglia continuare a fare politiche in cui svaluti il dollaro verso l'euro, no? E che in questo modo tieni su l'economia americana stampando dollari, perché poi svalutare il dollaro verso la lira o la dracma o la peseta è un po' più difficile, eh? E mentre così ha gioco facile anche lui, resta un euro molto forte nonostante tutti i problemi dell'area euro. La nostra valuta vale 1,27 sul dollaro, che per me è ancora tantissimo. Finché non la vedo a 1,1 non sono contento personalmente. Detto ciò, qualcosa si è ottenuto, nel senso che il Fondo Monetario Internazionale ha incassato 456 miliardi di dollari per rafforzare le difese globali anticrisi con i BRICS, ossia Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si sono impegnati a versare comunque, nonostante il mal di pancia, 75 miliardi di dollari, Alessandro. Sì, finalmente si è arrivati a questo risultato, lo si aspettava per aprile alle riunioni del Fondo Monetario, poi non era venuto proprio perché i BRICS avevano imposto delle condizioni, cioè avevano detto un attimo, qui sono anni che si parla di darci più peso e più influenza nelle decisioni del Fondo Monetario, questa riforma non va avanti e adesso ci chiedete dei soldi per finanziare l'Europa, soprattutto per finanziare dei paesi molto più ricchi dei nostri e che potrebbero impegnare le proprie risorse. Alla fine questi soldi li hanno sborsati e hanno preso anche un'altra decisione secondo me interessante, cioè di mettere in comune, fare un piccolo pool, un piccolo fondo di riserve almeno virtualmente per fare interventi reciproci nel caso. Un attimo che ti sentiamo un po', Alessandro, ti sentivamo un po' che abbiamo perso la comunicazione, l'ultimo pezzo, scusa. L'altra decisione, no, che dici... dicevo che oltre alla decisione di dare dei soldi a questo fondo, sì, a questo fondo del Fondo Monetario, i BRICS hanno preso un'altra decisione interessante, che è quella di mettere in comune un piccolo pool, un fondo di parte delle loro riserve, come sappiamo sono ingenti, per far fronte a eventuali problemi che si determinano nei paesi BRICS stessi, cioè di fronte alla crisi internazionale provocata o meno dall'Europa. I BRICS dicono, beh, cauteliamoci, oltre che con queste misure attraverso il Fondo Monetario, anche con un nostro fondo di riserve messe in comune per eventualmente intervenire se ce ne fosse bisogno. Ecco, l'altro fronte, quindi 456 miliardi, BRICS, che giustamente a mio avviso, insomma, li abbiamo trattati come quelli che stavano alla periferia dell'impero. Mo che chiediamo i loro soldi, dovranno pesare di più anche loro, Brasile, Russia e Cina. Non è che puoi chiedere i soldi, però tu a tavola non ti siedi, o ti siedi nella parte, diciamo, periferica del tavolo. Tu rivendicavi e ricordavi, Alessandro, quanto, insomma, lo stesso e compassato Barroso, delle volte anche fin troppo compassato, si sia seccato di sentirsi dare lezioni dall'America. Possiamo dire che è stato forse quasi un autogol quello di Barack Obama, cioè avere insistito così tanto sul fatto che l'Europa deve prendere le misure, l'Eurogruppo non si muove abbastanza velocemente, le misure non sono efficaci, aver chiesto un po' come faceva l'America post, diciamo, della guerra fredda, l'incontro con i vari leader, è stato un boomerang o no? Ma diciamo che ogni volta questo G20 partorisce dei piani, i cosiddetti piani d'azione, degli action plan, che vengono allegati al comunicato in cui ciascuno dei partecipanti si impegna a fare delle cose. Ed è vero che l'Europa in parte non ha fatto quello che doveva fare, ma è anche vero che gli Stati Uniti sono sempre più o meno allo stesso punto, cioè la loro situazione di bilancio resta la stessa, anzi sappiamo che prima della fine dell'anno o si faranno degli interventi oppure la situazione si complicherà ulteriormente, e sappiamo anche dalle vicende degli ultimi mesi, se non dell'ultimo paio d'anni, che assolutamente il Congresso non è pronto e anzi deciso proprio a non fare un bel niente su questo, per cui a un certo punto gli europei, e in particolare la signora Merkel, che è quella che si sente messa più sotto pressione di tutti, dice: ma insomma, noi siamo sempre sollecitati a fare questo, a fare quello, però gli americani esattamente che cosa stanno facendo? Passiamo alla borsa. Allora, c'era una canzone di Vasco Rossi che diceva, se non ricordo male, trovare una giustificazione per una storia che giustificazione non ne ha, una cosa del genere. Ecco, oggi la borsa sale del 3,35%, non è cambiato niente rispetto a ieri, ma tant'è, meglio che salga che non scenda. Con questa cosa la Catalano, la borsa. Magari mi sbaglio, chiedo come sempre un aiuto e una conferma ai colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Cioè, fammi capire, l'indice ZEV tedesco peggiora come mai da 14 anni, l'indice che misura le attese della comunità economica tedesca. Madrid deve offrire un rendimento di 2 punti percentuali più alto rispetto a maggio, cioè invece che il 3%, oltre il 5% per i bot a un anno, e la borsa festeggia? Mi sono perso qualcosa? Ma, trovare un senso a questa storia, come diceva Vasco Rossi, questa storia non ha nessun senso nella giornata di oggi, diciamo così, è stato difficile parlare Che salga. Anche con gli operatori di questi temi. Di fatto un riscatto forse di un giorno per Milano e per Madrid, come ieri era stato negativo dopo l'esito del voto greco. Di certo acquisti consistenti, tutti guardano alla Federal Reserve domani, a cosa potrebbe fare, qualche banca d'affari ha fatto qualche ipotesi, qualche azzardo su mosse a sostegno dell'economia americana, che oggi ha dato anche un segnale negativo sul fronte del mercato immobiliare, come tu ricordavi, ma certo Asta Spagnola e ZEV non facevano certo pensare a un andamento di borsa così, che invece ha avuto delle performance molto importanti, coperti soprattutto il settore assicurativo e le banche, ma anche la chimica, l'energia, il settore tecnologico, anche grazie alla spinta di Microsoft e del suo nuovo tablet PC, e diciamo la giornata di borsa ha un trend certamente evidente, come gli indici dimostrano, ma sicuramente non motivi forti per ritornare negli acquisti. Certo, se cioè, non a giustificare un 3,35% a Milano, alcuni ascoltatori scrivono: c'è un dato buono sulle concessioni edilizie americane, per carità, nuovi stimoli della Banca Centrale Americana, della Fed domani, per carità, però l'America fa più 0,90, noi facciamo più 3,35%. Telecom Italia, adesso andiamo sui titoli, più 7,90%, ma che è successo? A2A più 5,80, Enel più 5,70, Tenaris più 5,60, come le generali. Andiamo sui bancari, che ieri sembrava dovessero di nuovo scendere ai minimi storici. Intesa San Paolo più 4,80, torna a 1 euro per azione. UbiBanca più 4,80, 2,50 euro. Unicredito più 4,60, anche lì 2,58 euro. Banco Popolare più 4,13. Popolare di Milano più 3,80, e ancora per chiudere sul mondo bancario cito anche Azimut Bancario Finanza più 1,36%. Monte dei Paschi resta invece più al palo, più 0,60% a 18 centesimi di euro per azione. Diasori è negativa di 1,70%. Telecom e le utilities barra energia, quindi A2A e Enel Green Power. Beh, per Telecom veramente un rimbalzo molto importante, che è stato innescato da questa indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore che parla di trattative più avanzate con la Cassa Depositi e Prestiti e Metroweb per discutere scorporo della rete e nuovi progetti sulla banda larga in Italia per diffondere la banda larga in Italia, scusate, sono arrivate delle smentite sugli incontri sia sul fronte CDP sia sul fronte Telecom, ma certo il mercato non ha smesso di sperarci, gli analisti hanno fatto anche dei ragionamenti su questa ipotesi a 3 Metroweb CDP. Ragionamenti è eccessivo. E il mercato ci è andato dietro, ci ha acquistato pesantemente sul titolo che ha guadagnato. Sì, devo dire, già ieri, adesso per essere onesti, si era mosso il titolo un po' in controtendenza proprio sulla base del ragionamento, però insomma ancora utilities A2A, diciamo, in primis Enel Green Power, sì. Lì c'è la Grecia, Sì, c'è la Grecia che dà un'indicazione positiva per una volta, possiamo dire. Enel Green Power ha consolidato la sua posizione sul mercato fotovoltaico greco, ha avviato 4 nuovi impianti fotovoltaici nella regione del Peloponneso e quindi è una notizia importante che segue a un'attenzione particolare sul settore dell'utilities che si sta evidenziando negli ultimi giorni anche per effetto di quell'annuncio che è stato fatto dalla Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe investire nelle utilities rilevando le quote delle amministrazioni locali. Ecco perché anche su A2A si è tornato con una grande attenzione e guadagna il 5,8% oggi. Dicevamo di Telecom Italia e A2A, alcuni ascoltatori scrivono: beh, ma ci possono essere altri elementi, l'indice tedesco più basso è vicino a un taglio dei tassi della banca centrale, Juncker, è vero, ieri il presidente dell'Eurogruppo ha dichiarato che vi sarà una dilazione nei pagamenti nel debito greco, sì, tutto quello che volete, però non giustifica, dopo il tonfo di ieri, un più 3,35%. Detto ciò, oltre a Enel Green Power, anche Autogrill, qui ci sono notizie di mercato. Su Monte dei Paschi invece c'è un taglio del rating, Autogrill e Monte dei Paschi. Per quanto riguarda Autogrill, più 3,7%, oggi è arrivata la notizia dell'aggiudicazione da parte di World Duty Free Group, cioè un gruppo della società Autogrill, della concessione dei duty free nell'aeroporto di Düsseldorf e quindi subentrerà Autogrill a partire dal gennaio 2013 alla tedesca Heinemann nella gestione dei punti vendita appunto dell'aeroporto tedesco, mentre per quanto riguarda il Monte dei Paschi, alla pressione che c'è sul titolo in attesa del 25 giugno, giorno della presentazione del piano industriale molto atteso, è seguita anche il giudizio di Standard & Poor's che ha posto sotto revisione in credit watch negativo il rating a lungo termine del Monte dei Paschi e anche quello a breve termine, per cui la pressione sta aumentando, tant'è vero che è stato l'unico dei bancari a mettere a segno una performance così deludente per quanto positiva, perché ha fatto più 0,6% oggi. Grazie Andrea Fontana, miglior titolo Neurosoft più 15,80, peggior titolo EMS meno 18%, della Fornero che sta parlando a Senato parleremo dopo, adesso però parliamo di Alitalia. Allora, dicevamo l'Alitalia oggi all'interno e dopo la convention con i dipendenti della nuova gestione Ragnetti, resta sempre presidente chiaramente Roberto Colaninno, ma nella nuova gestione del nuovo ministero delegato Andrea Ragnetti c'è stato anche un incontro con i giornalisti e sono state illustrate sia ai dipendenti che poi anche alla stampa le nuove linee guida per l'Alitalia nel 2012 ma soprattutto nel 2013. Allora parliamone, visto che noi ci occupiamo tanto di trasporto su ferrovia, con il numero uno delle ferrovie dello Stato Mario Moretti e anche con il numero uno di chi fa concorrenza, e mi riferisco all'ingegner Sciarrone, quindi Italo, NTV Italia, e però c'è l'altro grosso soggetto, soprattutto sulla Milano-Roma, che si chiama Alitalia / Air One, visto che le due sono confluite in un'unica compagnia. Dottor Andrea Ragnetti, amministratore delegato di Alitalia, buonasera. Buonasera. Dunque, partiamo da cosa avete annunciato. Resterei sui conti, poi arriverei invece sull'offerta. Lei ha detto, se ho ben capito oggi, il 2011 è andato meglio di come dovrebbe andare il 2012. Nel 2011 all'Italia, con la precedente gestione, aveva sfiorato quasi il pareggio. Se non ricordo male, ci fu una perdita di 6 milioni di euro. Voi nel 2012 che cosa vi attendete? Ma realisticamente ci attendiamo di fare peggio di quei 6 milioni, ma anche perché le condizioni di mercato sono cambiate drammaticamente. Come lei sa, le linee aeree sono una cosa che è soggetta, diciamo, a dei costi che non sono spesso controllabili, per esempio il costo del petrolio oppure il valore del dollaro e in generale la macroeconomia. Ecco, queste tre cose che sono delle voci importantissime per una linea aerea stanno andando tutte nella direzione sbagliata. Il petrolio costa tanto, il dollaro si è rafforzato e la macroeconomia è sotto gli occhi di tutti, va male. Quindi realisticamente, per quanto noi facciamo del nostro meglio, questo è un anno dove sarà difficile fare meglio del 2011. Vi attendete qualche cifra migliore nel 2013, addirittura un pareggio di bilancio, non voglio dire utile, ma insomma... Noi oggi abbiamo detto che mentre lottiamo per limitare i danni nel 2012, vogliamo mettere le basi solide perché nel 2013 non si raggiunga semplicemente il pareggio, che come è stato a lungo uno slogan di Alitalia, ma si vada inutile. Un'azienda sana è un'azienda che produce utili e questo sarà l'obiettivo per il 2013. E quindi volete arrivare anche un po' di utile, se ho ben capito, no? Nel 2013? Sì. Vorremmo arrivare. È 15-20 anni che non vede l'utile all'Italia, ma sappiamo insomma com'è stata la gestione anche negli ultimi anni. Insomma, non mi sembra poco, sono veramente tempo immemori, no? Che l'Italia non produce utili, insomma... È venuto il momento di cercare di farlo. Il 2013 potrebbe essere l'anno giusto. Veramente. Ecco, potreste aver bisogno di una ricapitalizzazione. Questo è un periodo in cui molte società quotate non hanno problemi di capitalizzazione. Vuoi no, per andamento dei mercati o no? Mi dica. No, questa è una domanda che ci viene fatta sempre in maniera ricorrente. Sono tutti sa molto com'è. Preoccupati siamo un po' noiosi della solidità dei nostri conti, ma in realtà diciamo per la visibilità che abbiamo adesso, poi sa, le cose possono cambiare perché l'eurozona esplode, no? Ma insomma, per la visibilità che abbiamo adesso siamo solidi, non avremo bisogno nel prossimo anno di ricapitalizzare e quindi insomma siamo sulle nostre gambe. Abbiamo detto dei conti, voi sperate di arrivare quest'anno, chiuderete peggio che l'anno scorso, ma nel 2013 vorreste arrivare all'utile. Veniamo al tema Air France, perché quando è nata la nuova Alitalia, quindi privatizzata e fusa con Air One, molti hanno detto che prima o poi sarebbe stata fagocitata dall'alleato forte. Voi siete dentro il consorzio e l'alleanza SkyTeam, quindi Air France e KLM. Oggi voi escludete una vendita all'Italia, ma se ho ben capito parlate di un rafforzamento dell'alleanza, però alla pari? Ma diciamo che allora, strategicamente per Alitalia, cioè per una linea aerea delle dimensioni di Alitalia, non è realistico pensare di rimanere indipendente, diciamo da sola. Le alleanze sono all'ordine del giorno, il trasporto aereo le fanno tutti, ci sono sempre più fusioni o creazioni di gruppi larghi, no? Allargati. Allora, noi sappiamo che nel medio termine entreremo in una di queste alleanze e diciamo semplicemente che vogliamo arrivarci con i conti a posto, con una performance superiore relativamente agli altri e quindi essere in grado di sederci al tavolo della trattativa, della negoziazione con forza. E quindi oggi abbiamo per esempio cominciato a raccontare un futuro diverso per l'Italia, un futuro fatto di crescita di ricavi, con delle offerte straordinarie, ma anche con un modo rivoluzionato proprio di vedere il nostro pricing, di vedere per esempio la famosa Roma-Milano che lei menzionava prima in apertura. E quindi insomma siamo ottimisti, non abbiamo paura, ecco, l'entrare in un'alleanza non è e non sarà un problema, ma sarà una gigantesca opportunità per l'Italia. Aspettiamo soltanto di essere pronti e di scegliere il partner. Veniamo alle strategie, dottor Agnetti, perché voi avete chiarito, se ho ben capito, anche oggi che il vero vostro obiettivo sul mercato interno è, insomma, forse anche non solo sul mercato interno, è battere le low cost, cioè le varie EasyJet e Ryanair che tanto mercato vi hanno portato via sul fronte nazionale, ma anche Italia verso l'estero. Tra l'altro voi state portando avanti l'acquisizione di WinJet, che è un vettore low cost, quasi 3 milioni di passeggeri l'anno, che è focalizzato soprattutto sui voli per la Sicilia. Lì c'è anche l'antitrust che ha aperto un'indagine per eventuali 160 esuberi. Come va l'operazione con WinJet e, voglio dire, nelle vostre strategie, quindi il primo obiettivo è battere, se mi passa il termine, le low cost? No, guardi, nelle nostre strategie il primo obiettivo è far crescere sostanzialmente i ricavi dell'azienda. Nel farlo evidentemente guardiamo a tutti i nostri concorrenti, poi ci sono anche le low cost. Sulle low cost, che è un segmento particolare del mercato che si rivolge a una clientela particolare, noi come primo passo abbiamo potenziato Air One, come secondo passo stiamo cercando di acquisire WinJet perché ha delle competenze che proprio a noi mancano, ecco, fare la low cost è un mestiere proprio del tutto particolare. E poi vedremo, insomma, una volta, intanto aspettiamo il giudizio dell'antitrust essenzialmente sull'acquisizione di WinJet, vediamo se possiamo completarla in tempo e poi da lì svilupperemo un'offerta coerente per quel segmento del mercato. Ma diciamo, all'Italia le low cost sono comunque una cosa diversa, ecco, servono anche tipi di clientela diversi, con necessità e anche un'attitudine nei confronti del volo diversa. Restiamo però sulle strategie. Voi avete anche annunciato una semplificazione tarifaria su una delle tratte più importanti, che poi dovrebbe estendersi a tutta la rete nazionale, e cioè la Milano-Roma? Sì. Beh, oggi diciamo, questa era la notizia. La notizia poi è stata un po' di oggi, è stata un po' fagocitata. No, questa era la notizia per voi, per la storia dei risultati, no? Ma la notizia per noi, io dico internamente. Certo. E per il mercato grande, per il pubblico, perché poi il pubblico dei risultati del trimestre interessa poco, per il pubblico la notizia è che noi per la prima volta, e voglio dire siamo la prima e unica compagnia aerea al mondo a farlo, non soltanto semplifichiamo, ma cambiamo proprio l'approccio al prezzo, quindi al modo di fare tariffe, al modo di relazionarci con i nostri passeggeri, sulla Roma-Milano. Cominciamo perlomeno dalla Roma-Milano. Quindi lei sa che i prezzi sono sempre una cosa un po' incerta nel certo. Volo aereo, no? Uno dice adesso voglio andare da A a B e poi spinge il bottone del computer e gli appare un prezzo che è un po' un terno all'otto. Allora adesso noi sulla Roma-Milano cambiamo, ci sono prezzi fissi, certi e con condizioni sicure e con un'offerta semplificata, sono solo 5, il prezzo di partenza sono 99 euro, acquistabile fino a 5 giorni dalla partenza, si sa in anticipo, non ci sarà bisogno di fare lotterie per conoscerlo. È una rivoluzione, è proprio quindi diciamo, dal punto di vista da 44 a 5, ben capito? Allora, noi avevamo adesso una specie di mini giungla di 44 tariffe che sono diventate 5, ma soprattutto le 44 non erano proprio tutte assolutamente visibili e trasparenti, come peraltro fanno tutte le linee aeree. Adesso poi passiamo a 5 tariffe che sono fisse, chiare, visibili e si sanno in anticipo. Quindi insomma, diciamo una bella dimostrazione di rispetto nei confronti dei nostri clienti. Ecco, un'ultima domanda sempre sul fronte tariffe, ma in questo caso, anzi, meglio dire rotte. Più di un imprenditore che abbiamo intervistato, di associazioni di imprenditori in questi mesi e anni, fanno notare l'assenza dell'Italia nei famosi BRICS, o meglio, un numero di voli non adeguato, in particolare su Milano o dal nord Italia. Mi riferisco alla Cina, ma anche all'India, e allora le chiedo, è chiaro che all'inizio, quando l'avete privatizzata, quando appunto arrivò Roberto Colaninno e allora Rocco Sabelli, c'era bisogno anche di tagliare molto i costi, ma nelle vostre strategie l'idea di avere una presenza più forte o di tornare ad avere una presenza in questi paesi dove si sta generando ricchezza, dove i nostri imprenditori vanno per avere un po' di fatturato, visto che in Italia se ne vede poco, là dove c'è l'unica crescita possibile e là da dove arrivano i turisti che più spendono in Europa. Sappiamo tutti cosa succede, che se tu atterri a Parigi o atterri a Monaco o a Francoforte, il cinese di turno, l'indiano di turno spende tutti i soldi a Parigi, in Francia o in Germania, quando arriva in Italia lo shopping è bello che se n'è bello che è andato. Ecco, avete intenzione di rafforzare le rotte long haul, la lunga distanza in quei paesi? Allora, guardi, lei intanto dice una cosa giustissima che ho detto anche io oggi. Ogni tanto mi capita, Ragnetti. No, ma la ringrazio, mi ha fatto un assist, perché quando si discute di Alitalia si parla del vantaggio per il paese di avere una linea aerea, ma sembra un po' come se fosse un bel soprammobile, no, da esibire. La realtà è che una linea aerea forte nazionale garantisce di avere un hub forte nazionale, e questo significa intercettare proprio quei flussi di passeggeri di cui parlava lei, che hanno la scelta di arrivare in Europa a Parigi, a Monaco, a Francoforte e quant'altro. Quindi diciamo che questo dà una bella spiegazione del perché noi dovremmo considerare all'Italia un asset strategico. Poi sul lungo raggio, guardi, noi abbiamo speso 4 anni a fare un rinnovamento straordinario e profondo della flotta, anche e soprattutto il lungo raggio. Abbiamo adesso 22 aeromobili, alla fine dell'anno saranno tutti completamente nuovi o completamente rifatti, abbiamo migliorato il servizio e quant'altro. Abbiamo ridotto la presenza sul network, come ha detto lei giustamente. Adesso la cosa fondamentale, la priorità numero uno, è quella di rendere profittevoli tutte le nostre tratte intercontinentali, e non lo sono tutte, e quindi imparare a vendere il viaggio intercontinentale in maniera, diciamo, efficace. Dopodiché evidentemente penseremo all'espansione, ma l'espansione per l'espansione, diciamo, no, siamo un'azienda privata, abbiamo degli obblighi nei confronti dei nostri azionisti, dobbiamo fare le cose in maniera efficiente. No, comunque rimane una priorità sicuramente. No, no, ma nessuno vuole che voi vi accogliate costi, diciamo, non da società privata, come veniva nella vecchia Italia. Però attenzione, perché a me dispiace sempre molto vedere, tra l'altro, il settore del lusso, lo dico per inciso, che va così bene in Europa, Ferragamo, Tod's e quant'altro, anche per gli acquisti dei turisti che arrivano da questi paesi in Europa. Il problema è che se tu acquisti una borsa di Prada a Parigi, l'IVA la paghi lo Stato francese, il negoziante è quello francese, e solo in minima parte arriva a noi. Ecco, sarebbe bello che i turisti cinesi, brasiliani, indiani e quant'altro arrivassero direttamente in Italia e non vi arrivassero con il borsello vuoto. Comunque, in bocca al lupo, speriamo di vedere anche, appunto, rotte sia d'affari che di turismo. È per questo che non volevo giocare solo sugli affari. Va bene, d'affari che di turismo. Grazie Andrea Ragnetti, amministratore delegato dell'Italia. La ringrazio, arrivederci. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.